24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:19 minuti, eccoci cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 come al solito, 24 mattino, siamo anche su Facebook, trovateci lì, siete più di 800 in un 10 giorni appena, dai continuate, venite a trovarci, ci sono dibattiti, discussioni, c'è anche il tema del nostro sondaggio che vi invita a votare su radio24.it, oggi ci occupiamo di questa vicenda, parte settimana prossima sulla 7 un programma, un reality TV, nel quale il premio è un posto di lavoro a tempo indeterminato a ogni puntata. Nel momento in cui il lavoro non c'è, un giovane su tre non ha lavoro, che ne pensate di questa iniziativa? Un reality TV che assegna come premio un posto di lavoro a tempo indeterminato sulla 7, parte settimana prossima, ne parleremo alle 8:30, è un'iniziativa che vi piace, questo vi chiediamo, votate su radio24.it. A più avanti e ora i giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 3 febbraio, detto che come abbiamo sentito nel GR non troverete il Sole 24 Ore in edicola perché è stata proclamata una giornata di sciopero per quel che riguarda oggi. E vediamo i titoli di le scelte dei vari quotidiani. Sì del Premier all'appello del Colle, questo è il Corriere della Sera. Crescita, la promessa di Berlusconi all'apertura di Repubblica. Berlusconi, errori di tutti, questa è l'apertura del Messaggero. C'è chi sceglie come la stampa ancora l'Egitto, Mubarak prova a resistere ed è battaglia in piazza, mentre uguali praticamente il giornale è libero, nasce il partito dei PM per il giornale e c'è la foto di Santoro e Travaglio, e così libero Santoro fa un partito, oddio Michele scendo in campo. Mentre il Fatto Quotidiano, pronto, qui cricca, ci sono tutte le telefonate, le intercettazioni spiattellate a pagina 2 e 3, di che cosa? Della vicenda della cosiddetta cricca, vale a dire l'accusa appalti in cambio di lavori nelle case private. Allora, le segnalazioni da cui voglio partire sono la prima, la troviamo in prima pagina di Repubblica. Ecco i cacciatori di eredità sulle tracce dei parenti perduti. Yann Ermeletti ne parla da Genova. È la storia di una società francese che ha 35 sedi nel mondo, due in Italia, una a Genova e una a Milano, è la Couteau Röhrig. C'è chi si arranca sulla salita di Via Fieschi, si ferma al civico 25/6, racconta Yann Ermeletti. Legge sul muro che qui c'è la sede della società, ricerca di eredi, genealogia, e commenta: beh, almeno la targa c'è, proviamo a suonare. Inizia così la storia straordinaria di questa società che come lavoro cerca donne e uomini per dire loro: guardi che un vostro lontano parente è morto e vi ha lasciato dei soldi, che ne so, un palazzo, dei conti in banca. Ovviamente la reazione immediata di chi viene contattato è: sentite, non prendetemi in giro, d'altronde arrivano mail di questo tipo che sono spamming, che sono truffe. E ora ecco le due responsabili della sede di Genova, Nadia Spatafora e Eleonora Grasso. Abbiamo magari impiegato 3 anni per trovare l'erede, ci insultano. E quando succede ci restiamo male, poi con calma, altre telefonate, diciamo chi siamo, dove possono trovarci, invitiamo le persone a contattare un professionista di loro fiducia, un avvocato, un commercialista, di venire da noi e proponiamo un contratto di rivelazione. Cosa vuol dire? Noi svegliamo a queste persone che hanno un'eredità, magari da parenti che loro non conoscono, non hanno mai conosciuto, e ci impegniamo a lasciare, a prendere dal 10 al 30% di questa eredità. Ce la teniamo per noi, il resto va a questa persona. E sono esperti di genealogia, investigatori che rintracciano parenti perduti che hanno avuto un'eredità di cui non sanno nulla. Ci sono casi, per esempio, raccontano di una ragazza scoperta che ha ereditato 1.300.000 euro, oppure un milanese che lascia testamento per i suoi tanti beni ma ne dimentica altri. Vengono trovati 8 figli di un cugino, ognuno riceve 200.000 euro. È una società che caccia, nel senso che scopre gli eredi, eredi sconosciuti. E nel 2010 in Italia questa società ha distribuito agli eredi 10 milioni di euro, a eredi che non sapevano nulla. Oh, se vi chiama questa società Couteau Röhrig, sappiate che non è uno scherzo. Magari un vostro zio lontanissimo, un parente lontanissimo di cui non sapevate nulla, vi ha lasciato in eredità anche cospicua. Non mandateli al diavolo. andate lì, fatevi una chiacchierata e magari scoprite di essere diventati famosi. E poi voglio partire da Libero, voglio raccontare questa storia su Libero. Che ti ha combinato Alessandro Del Piero? E non stiamo parlando di calcio, della sconfitta ennesima della Juventus ieri a Palermo. Abbiamo sentito anche l'allenatore del Neri poco fa, molto arrabbiato. Ma questa è una vicenda che Libero mette in prima pagina: i 7 pass di Del Piero. Sono un VIP e devo scappare dai fan. Fabrizio Biasin racconta che Alessandro Del Piero possiede 7 vetture. E vabbè, 7 autovetture. In pratica un concessionario formato famiglia. E che ha fatto? Ha scritto al comune di Torino, pur abitando in collina, racconta Libero, però gli piace fare le vasche nel centro, per andare in centro ci vuole il permesso del comune, devi inoltrare domanda formale al comune, perché ti accettino la richiesta devi avere dei requisiti e validi motivi, per esempio abitare nel centro storico per l'appunto. Però Alex Del Piero cosa ha fatto? Ha scritto al comune di Torino chiedendo cortesemente 7 pass auto per altrettante vetture in mio possesso. Il comune che ha fatto? Ha respinto la richiesta mittente, e anche Pinturicchio che ha fatto? Ha preso carta e penna, ha scritto direttamente all'assessore alla viabilità Maria Grazia Sestero dicendo: ho bisogno, siate comprensivi, sono inseguito dai fan, martoriato dalla notorietà, povera stella, aggiunge Libero, e quindi ho bisogno di questi 7 pass, uno per ogni auto, quando vengo in centro. Ovviamente il comune ha risposto picche, e ora l'assessore dice: ci provano in tanti personaggi più o meno famosi, la risposta nostra per tutti è uguale, se uno non ha i requisiti per andare in centro non può avere i permessi. E vabbè, c'è anche il sindacato autonomo di polizia, il SAP, che bacchetta il capitano bianconero dicendo: certi campioni dovrebbero ricordarsi di essere un esempio per migliaia di giovani. Vabbè, insomma, adesso che esagerazioni, certo, forse è stata una caduta di stile. Comunque il dribbling fallito di Del Piero: voglio 7 pass per le mie 7 auto per sfuggire dai fan. Il bomber scrive al comune, che però non ci casca. Ne parla Libero in prima pagina e poi a pagina 23. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ripartiamo dalla politica, il federalismo e altre notizie. In primo piano. Nella giornata politica si segnala che cosa? Che ieri il presidente Napolitano ha fatto questo appello alle istituzioni di uscire dalla spirale degli scontri, accolto dal presidente del Consiglio Berlusconi. C'è da dire che oggi la politica sui giornali, non dico che sia un po' noiosa, ma insomma si racconta che cosa? Beh, intanto c'è un po' di polemica per questa intervista che ha fatto al TG1 Berlusconi, c'è appunto la mano sempre più evidente di Giuliano Ferrara, dice Repubblica, che si è riavvicinato a Berlusconi come consigliere, come consulente, a dire appunto: rimetti la politica in primo piano invece di parlare di altre cose. Infatti anche oggi il Foglio: ritorno alla politica, questo è il titolo di prima pagina. Il Cavaliere e il Quirinale irrobustiscono l'appello a finirla con la spirale delle prove di forza, mentre il Tesoro perfeziona il grande piano di rilancio per la crescita. C'è il PD con Bersani che dice: è tutta una bufala, Berlusconi in mente. Sta di fatto che ieri c'è stato anche questo incontro tra Berlusconi e Tremonti, questo vertice, perché si diceva che ci fosse Maretta nei giorni scorsi, perché il rilancio dell'economia annunciato da Berlusconi non era stato concordato con Tremonti. Ieri questo vertice, alcuni lo danno come un vertice abbastanza cordiale, Repubblica lo dà come un vertice abbastanza teso, nel quale Tremonti avrebbe detto: va bene l'economia, ma sappi che non ci sono soldi. Quindi se tutto si può fare, il rilancio dell'economia, senza toccare un euro di spesa pubblica, va bene. Sta di fatto che forse il tema, anzi sicuramente il tema più importante del giorno, è quello del federalismo. Tra l'altro vi annuncio, come abbiamo sentito, che alle 8:20 avremo Enrico La Loggia, che presiede quella bicameralina, che è quell'organismo che raccoglie 30 parlamentari, che oggi si dovrà esprimere sul federalismo, oggi credo alle 12:45. Tutti danno per un pareggio, 15 deputati che voteranno a favore e 15 che voteranno contro. E il Corriere la mette così: federalismo muro contro muro con Bossi che dice o passa o salta tutto. Ieri ancora anche il ministro dell'interno Maroni ha fatto questa frase un po' sibillina, ma neanche tanto, non so fino a quanto dura, riferendosi al governo. Comunque sul Corriere trovate i nomi dei 30 parlamentari del partito di appartenenza PDL, UDC, PD, chi voterà a favore del federalismo, chi vota contro secondo gli ultimi rumors. Fino a ieri c'è stata una trattativa anche con Mario Baldassarri, che è finiano e che fa parte è un po' l'ago della bilancia, perché è l'unico finiano che fa parte di questa bicameralina. Ieri ha incontrato Berlusconi, ha incontrato Calderoli, che è il grande autore della riforma del federalismo, per cercare di, insomma, fare delle concessioni, cercare di capire se voterà a favore o contro. Anche per La Stampa, questo è il giorno del federalismo, il PDL in pressing sui finiani con la moral suasion del Cavaliere che non riesce a fare breccia su Baldassarri. Eccolo qui il finiano. Il terzo polo conferma il no al voto al federalismo. C'è anche un'intervista al sindaco di Torino Chiamparino, intervistato da Repubblica, pagina 6. Chiamparino è anche il presidente dell'ANCI, quindi dei comuni italiani che hanno trattato sul federalismo, e riguardo a una possibile bocciatura oggi non è escluso che si vada dritti dritti verso le elezioni, dice Chiamparino. In questo caso chiederemo subito delle garanzie per il 2011, altrimenti i comuni non riusciranno a chiudere i loro bilanci. Poi Chiamparino invita alla riforma fiscale non più rinviabile, ma anche qui lo si sente da tanto tanto tempo. La politica torna in primo piano e ovviamente passa un po' in secondo piano la vicenda invece dell'inchiesta che vede coinvolto Silvio Berlusconi, anche se oggi è un giorno decisivo, perché un giorno importante, un passaggio importante. Alla Camera oggi alle 19 si voterà a scrutinio palese che cosa? La proposta della Giunta per l'autorizzazione alla Camera di respingere al mittente, cioè alla Procura di Milano, gli atti che sono arrivati alla Camera con i quali si chiedono le perquisizioni al ragioniere, a Giuseppe Spinelli, che è il ragioniere vicino, che cura i conti personali di Silvio Berlusconi. Sapete che la Procura ha chiesto con gli atti alla Camera di poterli perquisire, e la Giunta ha deciso di respingere questi atti al mittente. Oggi la Camera si esprimerà su questa proposta di respingere al mittente il tutto. Sta di fatto che però sia il Corriere della Sera dice attenzione, perché si temono in arrivo altre rivelazioni, e ieri già l'avevo detto, nel weekend Berlusconi sarà un vertice a Bruxelles, incontrerà Sarkozy, incontrerà la Merkel. Il timore un po' è questo, cioè che durante un vertice internazionale, come avvenne nel 94, possano arrivare nuove rivelazioni che, insomma, potrebbero essere anche imbarazzanti per la congiuntura, per il momento. Guardate il Fatto Quotidiano cosa titola a pagina 5. Bunga bunga, la foto c'è. Ecco, questo è un po' il terrore, il timore, le voci che girano anche di possibili foto, di possibili video. Gianni Barbacetto e Antonella Mascali raccontano: le foto sono la mina vagante del caso Ruby. Fin dall'inizio dell'inchiesta la Procura di Milano ha sempre smentito: non abbiamo foto nei nostri fascicoli, non abbiamo, non ne abbiamo e non ne abbiamo neanche bisogno. Ma le immagini sono forti più di ogni parola, non si possono equivocare, distorcere, interpretare, ridimensionare, negare, così malgrado le smentite continua a circolare la voce delle foto e dei video che starebbero arrivare a confermando definitivamente l'inchiesta, per inchiodare i protagonisti e fare da pistola fumante. Addirittura, secondo il Fatto, quelle che vengono definite le puppy girls starebbero cercando anche di vendere una grande quantità di foto, ricordo e di video fatti durante le feste. Ma staremo a vedere. Secondo il Fatto Quotidiano la foto c'è, mentre Repubblica apre un nuovo fronte, quello delle feste romane, con Paolo Berizzi a pagina 9. Raffa, Aris e le altre romane, anche a Palazzo Grazioli le feste come ad Arcore. Con qualche intercettazione di Nicole Minetti, che dice lì fanno feste anche tre volte alla settimana. Sono Minetti e Barbara Fagioli, due delle protagoniste delle serate ad Arcore, che dicono parlano appunto delle feste ad Arcore, dell'ambiente di Arcore, scusate, di Roma, delle feste a Roma, dell'ambiente di Roma, dove due o tre volte alla settimana, secondo un'intercettazione, Berlusconi vedeva spesso Cinzia, Valeria e Raffa, insomma riferimenti delle telefonate al giro romano, che potrebbe essere un nuovo fronte dell'inchiesta. Mentre su questo segnalo l'intervento accorato di difesa di Maria Burani Procaccini, che è un onorevole di lungo corso, si occupa da tempo di battersi per i diritti dell'infanzia, i diritti delle donne, ha presieduto varie volte la commissione bicamerale per l'infanzia, l'adolescenza, quella volta in cui Silvio aiutò le prostitute. È un accorato intervento su Libero, a pagina 6, racconta di quando riuscì a far incontrare Don Oreste Benzi, con tre povere figlie, una africana e due dell'est, le riuscì a portare a Palazzo Grazioli da Berlusconi. Eravamo solo noi quattro, racconta Maria Burani Procaccini, non c'era la stampa italiana, tantomeno gli onnipresenti media televisivi. Berlusconi arrivò senza farci aspettare, con la semplicità e cortesia che nessuno gli può contestare, chiese subito dei dolcetti per le ragazze, ascoltò il Don Benzi, poi si fece dire dalle ragazze stesse non le loro storie, si fece raccontare i loro sogni, i loro desideri. Quando una di loro gli disse che di lì a due giorni avrebbe compiuto gli anni, esclamò: «Mio Dio, anche mia figlia alla tua età sta per compiere gli anni!» «Non faccio birignao buonista», racconta la Burani Procaccini, «ma giuro che il cavaliere era davvero con le lacrime agli occhi. Si alzò quasi di corsa, andò in un'altra stanza, tornò con una busta, scandalo atroce, che mise in mano ad Onoreste dicendogli: «Falle un bel regalo, ma anche alle altre però, altrimenti non è giusto». Morale della storia: forse siamo in presenza pure di una doppia personalità, forse di tanta leggerezza e solitudine, ma per quel che mi riguarda, in tutti questi anni ho visto solo un uomo buono, circondato troppo spesso da uomini e donne senza scrupoli, sempre presenti, abbarbicati come sono ai potenti di turno. Questa Maria Burani Procaccini, il ricordo affidato a Libero quella volta in cui Silvio aiutò le prostitute. Vabbè, la politica, ripeto, a parte il federalismo, a parte quindi cose molto concrete di cui discutere, o il rilancio dell'economia, tutte cose molto importanti, anche se rientra un po' nel dibattito, un po' nel battibecco politico, poi è tornato a che cosa? A livello delle possibili, quello che chiama la Repubblica il mercato dei voti, o comunque cambi di casacca. Sappiamo che c'è un Barbareschi un po' in subbuglio. C'è Aurelio Misiti che fa un'intervista come al solito spettacolare, di quelle d'Antonello Caporale su Repubblica, che inizia così: Aurelio Misiti è un deputato oggi dell'MPA, è stato nell'Italia dei Valori, era anche comunista quando c'era il PC, cioè uno che di casacche ne ha cambiate abbastanza, e inizia così l'intervista: mi faccia ministro, anche sottosegretario può andare, se non gli garba mi nomini delegato del governo, ma prima si presenti coi soldi, 20 miliardi di euro e passo con Silvio Berlusconi. 20 miliardi di euro non è che vuole 20 miliardi di euro per lui, dice Aurelio Misiti. Poi nell'intervista dice: l'Italia non può finire a Roma, io mi batto per un progetto, l'alta velocità ferroviaria da Salerno a Palermo. Misiti è calabrese. E il governo deve mettere sul piatto 20 miliardi di euro di fondi FAS che ha tolto al sud. Al che Antonello Caporale dice: Tremonti collasserà a questa richiesta, non tutti e subito, per carità, non ne vuole mise 20 miliardi di euro, con calma, non tutti e subito, un piano decennale di reinvestimento. Ecco qua Aurelio Misiti, 20 miliardi di euro sul piatto per fare l'alta velocità Palermo, Salerno-Palermo, e io passo con Berlusconi, questo dice a Repubblica. E mentre Giornale Libero se la prendono con Santoro e Travaglio, fondano il partito dei PM, questo a pagina 5 del giornale. I due tribuni del giustizialismo firmano un manifesto anti-Berlusconi, annunciano il nuovo movimento Girotondino, si chiamerà Per legittima difesa. Di chi? Della magistratura. Arruolata anche Barbara Spinelli, editorialista di Repubblica. E Belpietro invece la mette così: Silvio può stare tranquillo, sono i suoi migliori alleati. La vicenda politica che però, o meglio di inchiesta, che sta tornando alla ribalta è quella della cosiddetta cricca. Vale a dire, come scrive Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere, ma trovate ovunque, dei articoli su questo, oltre 1 milione di euro l'anno di lavori non fatturati per accontentare gli amici che poi lo hanno ricompensato con appalti e commesse. Ritorna la vicenda di Diego Anemone, costruttore che avrebbe ottenuto 75 milioni di euro di appalti in vari anni. Perché? Perché avrebbe beneficiato con ristrutturazioni private molte persone. Tra queste c'è anche la vicenda che coinvolge Bertolaso, accusato insomma di aver avuto anche prestazioni sessuali, il famoso massaggio allo Sport Village. Ma ora escono anche altre liste. Secondo il Corriere ci sarebbero anche a casa di Bertolaso, sia via Giulia, messa a disposizione da Anemone, spese per 75.000 euro più altri 20.000 nel 2005, 170.000 euro nel 2006, un totale di 260.000 euro in un capitoletto titolato Marmi per Bertolaso. Ma poi anche aiuti all'ex ministro Claudio Scajola, che poté contare su lavori per 118.000 euro nel 2005 e 16.500 euro nel 2006. Il generale Francesco Pittorru, 200.000 euro tra il 2006 e il 2007. Gaetano Blandini, direttore generale per il cinema del Ministero per i Beni Culturali. Nel 2006 Anemone fece lavori nella sua abitazione per un totale di 85.000 euro, altri 30.000 nel 2007, racconta il Corriere della Sera. E anche a Monsignor Camaldo, un totale nel 2005 di 30.000 euro di lavori. Il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, da qui ripartiamo dal Monopol Traffico, tutte le intercettazioni della cosiddetta Cric. In primo piano. Pronto, qui Cric. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco il sistema telefonico e gelatinoso del governo Berlusconi. Questo a pagina 2 e 3 del Fatto. Tra l'altro l'esordio dell'articolo fa un po' riflettere, anzi fa molto riflettere. È questo: finalmente sono state depositate le telefonate intercettate sui cellulari di Bertolaso, Angelo Balducci e Diego Anemone. Cioè, finalmente, come dire, almeno, aggiungo io, le possiamo pubblicare. Ecco, poi ognuno rifletta su questo. Pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano ci sono, che ne so, è un sistema gelatinoso. Non è che da queste telefonate, io le ho lette con attenzione, non è che escano delle prove fumanti di reati, cioè non è che uno dice a qualcun altro, non so, ti do un appalto, tu mi dai quest'altro. Però si parla, per esempio, in una telefonata il 14 febbraio 2009, Giancarlo Galan, che allora era governatore del Veneto, chiama Angelo Balducci, il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, uno degli indagati, per offrirgli un posto da commissario per la costruzione del Palacinema di Venezia. E si sente Galan che dice: sa, abbiamo pensato a te, farebbe molto piacere, perché è una persona che ha degli agganci romani, e Galan poi ride, anche economici, nelle stanze che comandano, e ti ringrazio molto, dice Balducci. Oppure in un'altra, Bertolaso e Balducci telefono, vediamo un po', domani in Consiglio dei Ministri ne parla con Matteoli, grazie, dice Balducci, vediamo un po', gli ho anche dato una chiave di volta per sbloccarlo, visto che questo vuole una cosa, io ho detto, noi la facciamo se si fa quest'altra. Non si capisce bene di cosa stiano parlando, però insomma, secondo il Fatto Quotidiano, ecco, è un po' questo sistema gelatinoso di favori uno all'altro. C'è anche Gianni Letta e Bertolaso. Letta chiama Bertolaso, è il 7 marzo 2009. Scusami se ti disturbo, ma mi chiami Antonio Tajani per dirmi che ha saputo che Dimash, che è il commissario dell'Unione Europea, apre una procedura di infrazione sulla Maddalena. Mi ricordo male o tu eri amico di Dimash? Chiede Letta a Bertolaso. E Bertolaso: sì, ma lui non c'entra niente. Gli vuoi fare una telefonata tu o devo attivare l'ambiente? Chiede Letta. E Bertolaso: ambiente non ci difende mai, poi lì ci sono quei pochi verdi ambientalisti in Parlamento Europeo che fanno la loro, poi in ambasciata purtroppo c'è ancora la gente che ha messo Pecoraro e la Prestigiacomo ancora non è riuscita a toglierli. Quindi abbiamo una piccola massa critica negativa che lavora coi funzionari della Commissione. Poi ecco quest'altra telefonata, 14 dicembre 2008, Gianni Letta chiama Angelo Balducci per raccomandare il consigliere di Stato Alessandro Botto per fare finanziare i lavori di una chiesa. Letta: con me c'è un carissimo amico che è il consigliere Botto, viene da me a parlarmi di una cosa che mi sta a cuore da 30 anni, Santa Maria in Epiro e la chiesa in Piazza Capranica, che essendo vicinissima a Piazza Colonna è la sede della mia vita trascorsa al tempo. Lui vorrebbe venire a parlare, a far vedere un bellissimo progetto. Lei gli dà una mano, o per Arcus o per i 150 anni. Va bene, dice Balducci. O se lei trova nei suoi ricordi di provveditore del Lazio altre strade per arrivare a un restauro, meglio ancora. Quindi in questa telefonata Gianni Letta perorerebbe un restauro per una chiesa. Vabbè, quel sistema telefonico gelatinoso del governo Berlusconi, queste intercettazioni spiattellate sul Fatto Quotidiano. La crisi si fa sentire nei portafogli italiani, l'Istat, redditi in calo per la prima volta, meno 2,7% per la prima volta dal 1995, nella crisi c'è anche il lavoro ed è questo il tema del nostro sondaggio. Io vi ricordo, oggi di cosa parliamo? Di questo reality che parte in TV sulla 7, che offre un posto di lavoro a tempo indeterminato, da martedì prossimo. Che ne pensate? È una scelta che vi piace? Oppure no, è il tema del nostro sondaggio. Ieri sempre l'Istat ha fatto sapere che un giovane su tre, 29% di giovani, non ha un posto di lavoro. Un'altra vicenda che trovate ha suscitato polemiche è questa, la Cassazione salva Tanzi, niente carceri. Il giornale lo mette a pagina 15 con tanto di ritratto di Luca Fazzo, del personaggio, l'ultimo dribbling di Calisto, re degli affari finito nella polvere. Si dice che Calisto Tanzi si fosse quasi rassegnato, aveva atteso la decisione nella sua villa vicino a Collecchio con la moglie, la valigia pronta per il trasloco in carcere. Invece no, dopo una lunga camera di consiglio la Cassazione risparmia al protagonista del disastro Parmalat il ritorno in cella. Certo, il giornale poi si interroga come mai in tutto il mondo chiunque abbia venduto titoli spazzatura è finito in galera, tutti uno dietro l'altro. Solo qui nell'Italia indulgente e piagnona Tanzi se l'era cavata finora con tre mesetti di cella e poi via agli arresti domiciliari sotto le betulle di Vigatto. C'è il racconto dell'ascesa e rovinosa caduta di questo tycoon rampante, che dice il giornale La Sinistra, sempre coccolato. In ogni caso Tanzi non va in carcere, chi invece è in carcere c'è già e ha deciso di iscriversi a Re Bibbia a giurisprudenza per studiare è Cuffaro. Le prigioni di Cuffaro, mi iscrivo a legge. Ieri è andata a incontrarlo Saverio Romano, politico, leader del PID, e dice vive in una cella con altre tre persone, una è accusata di doppio omicidio, una di truffa, forse tra poco gli danno una cella singola, vuole studiare, vuole iscriversi a legge e riprendere gli studi, insomma studiare, laurearsi in giurisprudenza. Vabbè, io voglio concludere con due storie. La prima viene dal Messaggero, una bella storia, perché sempre si dice poco ottimismo. Guardate qui questo italiano, questo ingegnere italiano Lorenzo Colitti, 34 anni, vive a San Francisco nella Silicon Valley, che ti ha combinato. Internet da oggi indirizzi finiti, ma c'è un romano a salvare la rete. Sono finiti, io non ci capisco molto, ma comunque sono finiti la distribuzione degli IP, è come se fossero finite le targhe delle auto per cui da assegnare a ogni auto, per cui l'era del web rischia di terminare, ma questo ingegnere è uno che sta esplorando i nuovi IPv6, Internet Protocol Version 6. Colitti, uno degli ingegneri informatici che da anni sta lavorando a questo progetto che salverà la rete dall'oscurità, e dunque potrà portare traghetterà la rete nel futuro, ed è un nuovo sistema che praticamente permette di far navigare su internet un numero infinito di persone. Arriva l'IPv6, il nuovo protocollo per cellulare e computer, e sta studiando questo progetto, è uno dei protagonisti del futuro del web, un italiano 34enne romano che vive da anni a San Francisco, Lorenzo Colitti, oggi giustamente elogiato dal Messaggero per un'intera pagina. Vi lascio con la domanda che la scorsa settimana già vi avevo fatto e che sicuramente vi ha lasciato così in sospeso per questo weekend, perché era lanciata dai giornali. E io so che vi siete interrogati a lungo e forse siete arrivati a una risposta o forse no. Ma Belen è incinta? Perché ve l'avevo chiesto la scorsa settimana. E oggi, sul secolo XIX, per gli appassionati del genere c'è forse un punto in più. Io incinta? L'idea non è mia. Il titolo è straordinario, l'idea non è mia, che non vuol dire che è incinta. Ecco, senti, Paolo Crecchi, eccolo qua. Allora, signora Belen, è incinta oppure no? non è stata una mia idea. Cioè l'idea di dire che sia incinta. Ma no, guardate qua, esibisce la pancia, piattissima. E Paolo Crecchi dice sicuramente piattissima e priva di fascino se confrontata con le terga. Vabbè, un po' di trivialità qui ci sta. E niente coroncino in arrivo. E dunque niente figlio nuovo di secondo di Fabrizio Corona. Pare che non sia incinta. Comunque una Belen molto agguerrita che dice della Canalis: pensa di relegarmi ai balletti? Loro due faranno Sanremo. Io sono un'attrice. Così parlò Belen Rodriguez. Ci fermiamo, il GR 24 mattino. L'intervista. Sono le 8.21, ben ritrovati da Alessandro Milan. Per l'intervista di oggi voglio salutare il presidente della commissione della cosiddetta bicameraline, la commissione che deve decidere oggi il voto sul federalismo, Enrico La Loggia. Onorevole La Loggia, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora danno tutti i rumors per un pareggio 15-15, è la via più presumibile? Ma in atto è questa la situazione, anche se devo dire le ultime modifiche al decreto su iniziativa del ministro Calderoli, su iniziativa mia e a seguito di numerosi incontri mi lasciano ancora sperare in qualche ripensamento. Ripensamento, si pensa a Baldassarri, che è l'unico esponente finiano di Futura Libertà che ha incontrato, credo, lei, il premier Calderoli, insomma, in queste ultime trattative per cercare di accaparrarsi il voto? Questo... Ma non è solo con Baldassarri, naturalmente, anche se con Baldassarri ci siamo incontrati, con lui c'è un ottimo rapporto, peraltro le sue proposte sono molto molto buone, si tratta solo di conciliarle sia con il resto del testo sia con i limiti che il testo ha, perché non dimentichiamo che è un decreto legislativo che si fa sulla base di una legge delega e non può andare oltre i limiti della legge delega. E a chi altro pensa, Presidente? Se non... Lasciatemi un minimo di riservatezza, ma anche con altri componenti della Commissione di diversi gruppi politici sono ancora in corso contatti che potrebbero portare ad un esito positivo. Quindi insomma non è così scontato il pareggio. Il tema è questo: se c'è pareggio il premier ha detto si può andare avanti, altri come il PD, il leader del PD Bersani dice se c'è pareggio e dunque non c'è un'approvazione del federalismo il governo dovrebbe cadere, andare a casa, perché il federalismo è un punto dirimente. Che succede? Vorrei precisare due cose. La prima, ha ragione Berlusconi, ma adesso ci ritorno tra un momento e spiego anche il perché. Il secondo è che ci sia una situazione numerica in commissione di questo tipo, non è una cosa che stiamo scoprendo né oggi né ieri né l'altro ieri, ma da quando si è costituito il gruppo di Futuro e Libertà si sapeva di già che c'era questa situazione. La commissione è una commissione con 15 componenti di maggioranza e 15 di opposizione, più con il presidente che sostanzialmente è costretto, tra virgolette, a votare per poter avere una maggioranza. Questa è la composizione. La composizione stessa è stata in qualche modo alterata dal fatto che un componente della maggioranza si è ritrovato all'interno di un gruppo che attualmente sta all'opposizione. Baldassarri, per l'appunto. Ecco, il professore Baldassarri. Dico che questa situazione si fosse verificata, mi dovete riconoscere tutti, non è un evento nuovo, è un evento che conosciamo da diversi mesi. La commissione può anche finire in pareggio. Qual è l'esito? Che il parere sarebbe respinto. Se il parere è respinto, non c'è un parere. Questa è l'interpretazione più corretta. Sì. E la legge prevede che in mancanza di parere il governo può comunque procedere. Beh. Perciò dicevo, ha ragione. Quindi non è un parere negativo, si procede perché non c'è un parere che proviene dalla commissione in caso di pareggio. Esattamente, perché la legge prevede che la commissione dia il suo parere entro 60 giorni prorogabili per altri 20, evento che si è già verificato. Sì. Poi ci sono stati ulteriori 8 giorni concordati con il governo giusto per approfondire alcuni temi, quindi siamo già ben oltre i termini. Laddove entro oggi non ci fosse il parere, il governo secondo quello che prevede la legge ed è assolutamente normale, può procedere a fare il decreto, mancherebbe altro. Un'ultima cosa, Presidente, è questa: ci sono però i malumori, i mal di pancia della Lega. Ieri ancora il Ministro Maroni ha detto non so quanto dura il governo, pare che oggi ancora Bossi dice o passa o salta tutto, così titola il Corriere della Sera. Lei non crede che di fronte a un, se non uscirà un voto chiaro di insomma sì al federalismo, i leghisti potranno dire beh allora qui c'è qualcosa che non va? Beh, ma anche a loro voglio dire che la situazione che abbiamo davanti non è una situazione nuova, ma che conoscevamo da tempo, per un verso. Per un altro verso voglio dire, fino ad ora la Commissione è riuscita, grazie alla, come dire, al cordiale rapporto all'interno della stessa e al sereno confronto che sempre io ho voluto garantire, a restare fuori dalle grandi polemiche politiche esterne, eccetera, eccetera. È ovvio che se ora si incrociano pregiudiziali politiche da una parte e dall'altra, che a prescindere, desidero precisare, a prescindere dal testo, che seppure fosse scritto a lettere d'oro, con tutti più che soddisfatti, comunque permanesse una pregiudiziale politica, beh, allora il discorso è completamente diverso. E allora il pareggio, nelle condizioni che ho descritto e ben conosciute da diversi mesi, non vedo perché dovrebbe impedire al governo di emanare il decreto. Cioè lei teme che qualcuno lo voglia prendere a pretesto nel caso di dire... Ma è evidente, mi pare di un'evidenza solare. Io la ringrazio, Presidente, buona giornata, insomma non ci vuol dire con chi trattate. Ebbene, lasci un momento di... Tanto lo scopriremo a fine mattinata, no? Perché e c'è il voto. Ormai mancano poche ore. Mancano poche ore, ci lascia così sulle spine. La ringrazio intanto, grazie, buona giornata voi, al Presidente Enrico La Loggia, Presidente del Popolo della Libertà e Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che oggi si pronuncerà. Avete sentito? 15-15 è la situazione per il momento e dunque si profila un pareggio, a meno che non ci sia questa trattativa, ci ha detto il Presidente della Loggia nell'ultimo momento, con anche alcuni per cercare di convincere a votare sì. Ci fermiamo, pubblicità e meteo. Il voto sarà credo alle 12.45, comunque tarda mattinata, quindi lo seguiremo nel corso di tutta la giornata di Radio 24. Il nostro sondaggio di oggi è questo: parte una trasmissione, un reality show sulla 7 settimana prossima, che mette in premio non denaro, non è, un posto di lavoro a tempo indeterminato. Questo nel momento in cui un giovane su tre non ha lavoro, il 29%. Questo è un momento di situazione di difficoltà. Che ne pensate? È una decisione giusta? Ogni puntata ci sarà una persona che avrà come premio vincitore un posto di lavoro a tempo indeterminato. È una scelta che vi piace? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Votate il sondaggio su radio24.it tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:33 minuti. Allora parte a fine mese, il 22 febbraio, un reality show sulla 7, si intitola Il Contratto, gente di talento. Che dice, state facendo pubblicità alla 7? No, è il tema del nostro sondaggio, perché questo reality show è un reality show che mette in premio ogni puntata, di fatto vedremo, come un posto di lavoro a tempo indeterminato. È il tema del nostro sondaggio. Vi piace questa idea? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E in un momento in cui per il 29% dei giovani il posto di lavoro non c'è, questo certificato dall'Istat, oggi scopriamo che la crisi si fa sentire, i redditi in calo del meno del 2,7% per la prima volta dal 1995, insomma... Ci piaceva parlare di questa iniziativa, una trasmissione TV, un reality TV che mette in palio un posto di lavoro a tempo indeterminato. Lo condurrà Sabrina Nobile, che saluto. Sabrina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Devo fare subito una dichiarazione di stima, diciamo di stima. La mia Iena, ex Iena, cosa devo dire, preferita. No, no, quello che vuoi. No, vabbè, ma cioè, per sapere chi non l'ha focalizzata, è quella che andava dai parlamentari a chiedere cosa fosse il Darfur, la Consob, la mitica Consob. Vabbè, ti odieranno tantissimo in Parlamento. Ma comunque, ora parleremo di questa cosa. Voglio salutare anche il vice direttore dell'Unità, Rinaldo Gianola. Ben ritrovato, Rinaldo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ieri l'Unità è stata molto, molto dura, devo dire, su questa, nel proporre, nel commentare questa iniziativa. Intanto, Sabrina Nobile, insomma, qua c'è da spiegare che vuol dire un reality show che offre un posto di lavoro a tempo indeterminato. Sembra un po' brutale messa così. Sì, infatti è brutale. Intanto definirlo il reality show che offre un posto di lavoro determinato penso che non sia il modo corretto di definirlo. Noi raccontiamo delle storie, l'intento non è chiaramente quello di, come dire, di far gareggiare persone, farle azzannare per poi fargli vincere un posto di lavoro. Noi semplicemente ci inseriamo a un certo punto nella selezione. Ogni puntata ne avremo un'azienda che fa le sue selezioni per conto suo del personale, e quindi noi seguiamo il periodo di stage degli ultimi tre candidati con l'intento un po' di spiegare quelli che sono i meccanismi di selezione all'interno dell'azienda, quindi come funziona il mondo del lavoro, svelare una serie di meccanismi, come funziona il colloquio sotto stress, come funziona la scena col capo, quali sono le prove che vengono fatte nell'azienda, e poi in qualche modo spiegare questo all'interno dello studio con una serie di ospiti che avremo fissi e alcuni che invece varieranno di volta in volta, e quindi con l'intento anzi di dare degli strumenti a chi si avvicina al mondo del lavoro di comprensione da una parte. Dall'altro ovviamente, siccome questo lo faremo attraverso come dire, tre persone che poi sono le persone selezionate dall'azienda, e non stiamo parlando di protagonisti come dire particolari di reality, perché molto spesso anzi è il contrario, cioè è appunto anzi è il contrario, è gente del tutto normale che non ha nessuna intenzione di emergere attraverso la televisione, ma gente che normalmente fa un percorso, come dire, di ricerca e lavoro, e quindi chiaramente raccontiamo anche delle storie di persone, ma sono e necessariamente collegate al discorso sul lavoro, certo. Perché il lavoro quindi è fatto da persone, seguite diciamo una sorta di selezione, o meglio le fasi finali della selezione, le ultime tre. È la fase finale della selezione di un'azienda che fa i suoi percorsi di selezione. Poi in studio ci sarà il colloquio, diciamo, finale con il rappresentante dell'azienda, e verrà firmato questo contratto, ma non è che la trasmissione in qualche modo mette in palio siamo noi che offriamo il posto di lavoro, e l'azienda nel suo normale percorso di selezione che noi in qualche modo osserviamo e sveliamo quelli che sono i meccanismi e li commentiamo insieme, anche per dare degli strumenti di decodifica ai ragazzi che come dire che entrano nel mondo del lavoro. C'è da capire se tutto questo, lo chiedo a te ma voglio chiedere anche a Rinaldo Gianola, cioè l'intervento della televisione in qualche modo, si sa, modifica un po' le percezioni, modifica un po' quello che è un percorso normale che fanno milioni e milioni di persone in Italia per cercare un posto di lavoro. Non so se Rinaldo Gianola, messa così, spiegata da Sabrina, la nostra Sabrina Nobile, attenua un po' le critiche che ieri l'Unità ha fatto dicendo ma come il maledettissimo posto di lavoro adesso passa attraverso un reality in TV. Ma sai, adesso vedremo come sarà la trasmissione. Diciamo che questa proposta, il contratto, no? Si chiama finalmente, per avere un contratto a tempo indeterminato uno va in televisione e mostra, diciamo, la sua discussione con il possibile datore di lavoro. Questa proposta mi suscita, diciamo, due considerazioni. La prima è che spero naturalmente che moltissimi giovani possano davvero utilizzare la televisione e anche questo strumento, per me assai dubbio, per ottenere un contratto, visto che siamo veramente in condizioni pietose. La seconda considerazione che mi viene invece è di profonda tristezza, cioè stiamo riducendo tutto, anche i valori fondamentali di questo paese su cui si è costruita la nostra società, la nostra Costituzione, la nostra storia, a qualche cosa che ha a che fare con la televisione, alla banalità e alla volgarità della televisione. Noi stiamo riducendo il lavoro non più a un valore, ma a un disvalore, a un sottovalore, a qualcosa che viene ormai, come dire, mercificato e utilizzato per creare audience o magari per creare sostanzialmente delle illusioni. Questa trasmissione arriva, poi la vedremo come sarà, per carità, facciamo sì, certo, auguri, certo, certo. Però arriva dopo una serie di, come dire, casi, diciamo, non lo so nemmeno io come definirli, io userei forse una parola un po' più dura. Ci sono stati dei supermercati che hanno fatto la riffa del lavoro. È vero, è vero. E credo dei supermercati paglio, che hanno messo in hanno palio, messo in palio un posto da precario per qualche mese in Sardegna, ma in altre regioni del sud, in Italia. Quasi che l'operazione di marketing per promuovere una propria catena di vendita di prodotti o un proprio prodotto fosse ti offro un posto di lavoro, vediamo come va. No? Questa è, diciamo che penso che anche questa discussione che stiamo facendo sia il segno veramente che il lavoro, uno degli elementi fondativi, fondamentali della nostra vita quotidiana, del nostro stare insieme, della nostra società, del renderci comunità, stia diventando veramente una cosa priva di valore. Vediamo se su questo, ecco, queste critiche, Sabrina, sono, come ci hai spiegato, il format è una cosa un po' diversa, però cercare di capire se effettivamente il lavoro debba passare attraverso un momento televisivo. Poi posso dire solo una cosa, sì, che secondo me non è la televisione che offre i posti di lavoro. La televisione racconta delle storie che sono delle storie reali, che è quella di gente che appunto si trova a cercare un lavoro e che molto spesso non lo trova. Ora, noi non facciamo nient'altro, non è che siamo noi che mettiamo in pari un posto di lavoro, queste aziende comunque avrebbero fatto le loro selezioni e avrebbero dato i loro posti di lavoro. Noi, anzi, non è un caso che c'è una trasmissione che parla di lavoro, perché la televisione si inserisce anche su quella che è la realtà, e la realtà adesso è una realtà incentrata molto su questo che è un problema. Ma quindi ti chiedo, non c'è il rischio che arrivi poi in trasmissione il più telegenico, o meglio che si è scelto anche per la selezione no, più telegenico? Noi non assolutamente no, proprio perché noi non siamo noi che scegliamo i candidati, cioè, e poi l'azienda certo non si mette a far vincere, a far firmare un contratto a tempo indeterminato una persona perché è telegenica e poi se la deve tenere in azienda a lavorare per anni. Sì, insomma, certo, perché poi il contratto, anzi, è una cosa vera e seria, insomma. Sì, cioè, nel senso, appunto, questo volevo sottolineare, mi sembra che noi cerchiamo di parlare del lavoro proprio perché è una questione di cui si parla e non è il contrario, cioè non è che vogliamo noi mettere in pari un posto di lavoro, non è assolutamente questo il meccanismo, perché insomma. Tra l'altro, visto che si è detto la TV racconta storie vere, storie concrete, io una storia più concreta di questa, sono felice, sta vivendo anche un momento non solo di notorietà, non solo perché ha vinto 1 milione di euro, forse avete già capito di chi stiamo parlando, ma anche perché viene un po' intervistata, eccetera. È la signora Michela De Paoli, che saluto. Signora Michela, buongiorno. Buongiorno. Lei ha vinto, io l'ho assistito perché seguo il programma di Gerry Scotti. Avete capito di chi stiamo parlando? La signora che ha vinto 1 milione di euro di recente da Gerry Scotti, il milionario, perché sapeva tutto, ma tutto di tutto, cioè qualsiasi domanda lei la sapeva già prima. Perché, signora Michela? Perché ha letto tanto? Eh sì, sono sempre stata una lettrice avida e curiosa fin da bambina. Però ammetto che durante il programma sono stata anche fortunata, mi sono capitate tutte domande a cui sapevo le risposte. Lei però ieri ha preso carta e penna, o meglio ha scritto una lettera che il Corriere della Sera ha pubblicato ieri, sì, denunciando questa Italia nella quale è meglio essere bella e scema, è l'Italia in cui basta apparire per ottenere qualcosa, è un'Italia alla quale lei vuole un po' ribellarsi, no? Perché la sua storia è quella di essere casalinga, ma per una casalinghitudine che non le appartiene, non fa per me, ce la spieghi? Sì, esatto, sì, a me non piace stare a casa, ci sono costretta, io sento che per me fare la casalinga è talento sprecato, io proprio mi piace lavorare. Anche perché fra l'altro ho avuto una mamma che lavorava, quindi per me la figura della donna lavoratrice è sempre stata una cosa naturale. Però un posto di lavoro lei non ce l'ha, l'ha perduto? Sì, l'ho perso, ho lavorato fino alla fine del 2007, poi l'azienda in cui lavoravo ha ridotto il personale a causa della crisi. Insomma, una delle storie che purtroppo in Italia nell'ultimo anno e mezzo sono capitate. E che ne pensa lei dell'idea, poi c'è, qua Sabrina Nobile ci sta spiegando che non è che nella trasmissione si offre un posto di lavoro, ma comunque questo format, una trasmissione che racconterà le ultime fasi, i passaggi, le selezioni finali delle persone che vengono selezionate da un'azienda per ottenere un posto di lavoro. Un po' forse anche a lei la TV aiuterà per trovare un posto di lavoro, o no? Sì, beh, io ci spero moltissimo. Comunque sì, secondo me è proprio interessante far vedere i processi di selezione, far vedere in base a quale criterio premiante i datori di lavoro agiscono, perché io spesso ho fatto colloqui con fiducia, dimostrando entusiasmo perché il lavoro mi interessava veramente, sperando che fosse mio, invece poi mi telefonavano che era stata scelta un'altra persona e io ci rimanevo male. Ma non crede il fatto di essere ora diventata milionario, comunque di un personaggio pubblico, un volto pubblico, grazie alla televisione, questo potrebbe aiutarlo? E che cos'è se non anche questa una scorciatoia, se vuole? Beh, io penso che le scorciatoie siano comunque dei colpi di fortuna che arrivano per aiutare chi se lo merita. E lei pensa di meritarlo? Sì, alla stragrande. Alla stragrande. Almeno per quel che ha dimostrato dal punto di vista della cultura generale, questo sì. Però rimanga con noi, io mi devo fermare, ci sono le informazioni sul traffico. Poi ripartiamo da questo, sentiamo anche qualche ascoltatore. C'è da dire che per il momento il 60%, credo il 67% degli ascoltatori dice no, non è che ci piace tanto l'idea di un posto di lavoro che venga comunque dato attraverso un programma televisivo. Poi ripeto, non è proprio così, ma per sintetizzare il traffico rientriamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora ci stiamo interrogando sulla trasmissione Il Contratto, che partirà il 22 febbraio sulla 7, nella quale si raccontano le fasi di selezione poi di alcune aziende, a parte di alcune aziende, del personale fino alla firma di un contratto a tempo indeterminato. Sentiamo che ne pensa Simone da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Dica, a voi, Simone. Telespettatori. Io ho ascoltato i vostri interventi, in particolare quello della conduttrice. Sì. Intanto devo dire che non è che, come ha ripetuto più volte lei, il contratto viene dato in trasmissione, sono state delle selezioni, prima ha detto giustamente. Sì, sì, arrivano gli ultimi 3 candidati di questa azienda. Ben volentieri trasmissioni del genere senza nessuna vergogna, perché io vivo in una regione che una volta veniva definita, ripeto, una volta veniva definita la Las Vegas d'Italia. Qua la situazione è molto molto grave, e piuttosto che rifarsi tette, naso per avere un posto in un reality, e non vedo niente di male che delle selezioni normalissime vengano fatte in TV e vengano raccontate. Grazie. E poi eventualmente. Grazie, Simone. No, lei non ci vede niente di male. Giuliano da Lucca, buongiorno. Giuliano. Buongiorno. Giulia, dica. Buongiorno. No, niente, io trovo uno scandalo. Ormai la dignità umana è veramente ormai terribile. In che cosa? In che cosa? Se ti ricorda lei il film Non si uccidono così anche i cavalli? Non l'ho visto, ma che cosa? Una depressione americana che mettevano in palio $10,000 chi resisteva a una gara di ballo e vinceva l'ultima coppia, vinceva, no? Ma cosa trova di scandaloso? Cioè, trovo scandaloso che la dignità umana ormai facciamo vedere anche le paure, le angosce delle persone in diretta, che per un posto di lavoro. Cioè, il posto di lavoro dovrebbe essere una cosa per cui è normale, cioè diventa uno spettacolo anche l'angoscia. Va bene, quindi lei trova scandaloso questo. Grazie Giuliano, tra poco le risponderà Sabrina Nobile. Io però vorrei chiedere al vice direttore dell'unità, Rinaldo Gianola. Non so se Rinaldo hai visto Il Milionario, se la signora De Paoli l'hai conosciuta attraverso la TV. No, la signora De Paoli non la conosco, ho visto Il Milionario e ho sentito adesso le sue parole. Ecco, a me colpisce molto, perché in questa lettera del Corriere oggi il Riformista commenta questa lettera dicendo quella signora De Paoli, vincendo 1 milione, ha riscritto il rapporto rendita lavoro. Cioè, tutti con 1 milione direbbero: beh, vabbè, vado in vacanza, vado di qui, lascio tutto. Invece lei dice: io voglio un posto di lavoro fisso, nonostante abbia vinto 1 milione. Questo è il mio sogno. Non so se ti ricordi, ma circa un anno fa persino Tremonti fece l'elogio del posto di lavoro fisso, no? Sì, sì. Come elemento fondamentale di sviluppo della società. La signora che ha vinto 1 milione, a cui faccio tanti complimenti, ricorda in termini, visto che ormai parliamo di TV e di spettacolo, ricorda in termini espliciti, ormai diretti, il protagonista del film Slumdog Millionaire, che ha vinto il premio Oscar, sì, no? Vi ricordate? Sì, sì. Il giovane ragazzino indiano che dagli slam vince una... Credo che l'abbiano rifatto ieri o l'altro ieri, vince, ovviamente sfruttando. Vince un enorme premio economico, cambia la sua vita e cerca in qualche modo di riscattarsi attraverso una vittoria televisiva. La TV vende sogni e illusioni a bassissimo costo, no? Con un ritorno altissimo per il prodotto televisivo, evidentemente, no? Perché cresce l'audience, cresce la pubblicità, crescono gli investitori. Ma la signora che chiede giustamente il posto di lavoro, così come il ragazzino di Slumdog Millionaire, rimangono soli, sono isolati. Così come rimangono soli, isolati, quelli che andranno a sfirmare il contratto di lavoro sulla rete, sulla 7, saranno persone comunque isolate. Ora io, di fronte a queste considerazioni, vorrei fare una sintesi, secondo me. Cioè, oggi in Italia i giovani che hanno studiato, che si sono laureati, che hanno fatto magari la specializzazione, che ne hanno viste di tutti i colori per avere un posto di lavoro, che sono stati ricattati per fare qualche stage, per avere un contratto estivo, si trovano davanti a questo bivio: o vai in televisione a fare il cretino per poter sperare di avere un posto di lavoro, no? Oppure ti devi mettere in fila davanti alla villa di Arcole se sei una bella ragazza. Questa è la sostanza dei fatti che emerge oggi pubblicamente. Addirittura, siamo riusciti a mettere dentro Arcole anche oggi, una volta che non... Arcole è la sintesi di tutta questa ricerca italiana, purtroppo. Non lo so, sentiamo Sabrina Nobile a queste critiche, ma poi il programma poi lo vedremo ovviamente. Sì, perché stiamo... Il programma lo vedremo, io credo appunto che adesso non è che tutte le colpe della... problemi della disoccupazione siano additabili al nostro programma. Nel senso che, ripeto, il fatto di far vedere delle storie di persone che si trovano a avere a che fare col problema del lavoro, che entrano in una stage di selezione aziendale che, come vedrete, non è niente, che non ha nessun appeal televisivo, anzi spesso il contrario, non trovo che anzi possa avere la funzione opposta, cioè il fatto di poter avere la possibilità in un altro luogo ancora di parlare del lavoro e di parlare ai giovani del lavoro. Quindi io la intendo in questo modo, non la intendo assolutamente... Non è una riffa, non è una riffa, c'è gente normale che racconta le sue storie, i suoi problemi di arrivare a fine mese, di avere bisogno di un contratto a tempo indeterminato, si parlerà di questo studio anche rispetto a quella che è la condizione appunto attuale, se ne parlerà in toni del tutto vedremo. E dopodiché l'azienda sceglierà una persona come l'avrebbe scelta indipendentemente dal programma. Dalla presenza delle telecamere. Quindi non c'è, come dire, non è che la televisione tramite il programma televisivo queste persone c'erano al posto di lavoro, l'avrebbero fatto comunque senza la televisione. Vedremo allora dal 22 febbraio, ricordo, il contratto Gente di Talento sulla 7. Signora Michela De Paoli, ma il giornale oggi, anche il giornale le dedica un articolo nel quale tra l'altro dice: però adesso non ci faccia la morale la signora Michela che ha vinto 1 milione, è un po' critico il giornale, ma dice che lei ha trovato un posto di lavoro da assistente. Dunque, allora premetto, non ho ancora il lavoro, adesso ho soltanto un colloquio fissato. Un colloquio, insomma, non è un posto di lavoro, è un colloquio. Sì, poi ho ricevuto anche altre proposte che dovrò valutare. E poi, fare la morale, io non faccio mai la morale a nessuno per principio, non è nelle mie corde fare la morale. Quindi non inizierà certo adesso, lei dice. Assolutamente no, comunque permetto, io avevo già pensato da tempo che avere un po' più di visibilità avrebbe potuto aiutarmi, quindi qualche mese fa avevo fatto un esperimento, avevo cominciato a scrivere un blog in cui raccontavo le mie esperienze lavorative molto più dettagliatamente di quanto posso fare nelle poche pagine del curriculum, tutte le mie esperienze scolastiche e lavorative, le mie aspirazioni, ma l'ho abbandonato dopo aver scritto credo 8 o 10 pagine. Poi adesso, poco prima di andare al milionario, avevo preso un'altra decisione. Volevo iscrivermi a LinkedIn, che è un, lo sapesse, social network tipo Facebook, ma specifico per il lavoro. E non l'ha fatto? No, perché mi è arrivata la chiamata per il milionario, mi avevo promesso di farlo ritorno a casa. Allora mi sa che l'è andata meglio. Anzi, aggiungo un'altra cosa. Prima io ho letto una notizia su internet che in Spagna un disoccupato ha creato una specie di Facebook per disoccupati, l'ha chiamato Paro Book, perché è disoccupato in spagnolo si dice paro. Certo, perché lei lo sa. Sì, proprio con l'intenzione di condividere esperienze... Esperienze simili. Dopo il scopo di condividere esperienze con tutti i disoccupati di Spagna e di avere più visibilità per trovare un nuovo posto. E io intanto guardi, io qua mi devo fermare perché il tempo è finito, però le facciamo tanti auguri, è un personaggio straordinario, io l'ho conosciuto attraverso la TV, ma mi devo fermare. Siamo anche noi su Facebook, 24 mattino, con Peter Bescapè in regia, Antonella Migliaccio e Elisabetta Fusconi in redazione. A domattina.